sa, magnesero sa forza, il reggio cielo sorrepesca così. Umi del cielo, che fia di me, Griselda vanne fuor della reggia, il re le pone. Vuol che io perde qualchier senza che miri, detto so. Io qui l'attendo, e tu, se nulla ti muovo una pietà le mie quelle, che far potrei recarmi il figlio, ond'io nell'ultimo congedo possa imprimere a me.